Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. È in sargante il traghettatore, buongiorno. Vi ricordiamo che ancora pochi giorni, il 30 luglio in particolare, scade il termine per l'iscrizione all'Oscar di bilancio. L'Oscar di bilancio è un premio molto importante organizzata dalla Federazione delle Relazioni Pubbliche ed è giudica, valuta e quindi premia i bilanci che sono realizzati ovviamente dalle aziende, quindi rendiconto economico e anche ormai socio ambientale sia dell'ente pubblico che privato. La cerimonia di premiazione, poi se dopo il lavoro della giuria, avverrà entro la fine dell'anno alla Borsa Italiana a Milano. Siamo collegati con Stefania Bertolini, che è segretaria generale del CSR Manager Network. Buongiorno Stefania. Buongiorno, Bertolini. Buongiorno. Parliamo di ristrutturazioni aziendali, sapendo che questo può avvenire per tanti motivi, perché si cambia business per andare nei mercati internazionali, spesso però purtroppo in questo periodo più frequentemente per ragioni di contrazione del mercato, di crisi. Stefania Bertolini, voi avete elaborato una proposta da questo punto di vista come CSR Manager Network. C'è stato nel mese di giugno un incontro del nostro network dedicato a questa tematica, dove hanno partecipato diversi attori coinvolti nelle ristrutturazioni, quindi dalle aziende come Elica, Best Place to Work 2011 sia in Italia che in Europa, ed altri stakeholder. Quello che è emerso è l'importanza di agire con un commitment preventivo, quindi non facendosi cogliere di sorpresa dalla ristrutturazione, per essere più responsabili nei confronti di tutti gli interlocutori, di tutti gli stakeholder coinvolti. Dando per scontato che comunque l'azienda che vuole vincere la competizione sul mercato deve concepire la ristrutturazione come un atto dovuto anche nei confronti del mercato e dei propri collaboratori. Allora, di fatto la ristrutturazione è qualcosa che deve essere, che è già nell'aria, no? Prima di iniziare il processo vero e proprio di downsizing, quindi ristrutturazione detto con termine anglosassone. Sì. Di fatto una ricerca che è stata presentata in questa occasione da Vigeo, condotta su 363 società europee quotate, ha dimostrato che di fatto solo poche aziende iniziano a pensare alla ristrutturazione con anticipo, quindi cercando di minimizzare tutte le criticità che un processo di ristrutturazione porta sull'azienda, quindi dall'impoverimento del capitale umano in termini sia di quantità che di varietà delle competenze su cui l'azienda può contare dopo il processo di ristrutturazione, all'impatto negativo sul morale dei lavoratori che rimangono in azienda, si parla a questo proposito di sindrome dei sopravvissuti, e poi anche, perché no, sul peggioramento dell'immagine aziendale che segue al processo di ristrutturazione. Ecco, immaginiamo che quindi ristrutturazione responsabile vuol dire agire tenendo presenti tutti questi fattori e non solo quello per esempio del conto economico piuttosto che fiscale, tanto per dirne una. Sono tutte componenti che vanno prese in considerazione a pari grado, senz'altro. Bene, grazie Stefania Bertolini per questo approfondimento. Grazie a voi. Chiudiamo con una notizia che riguarda, siamo in piena estate, i campi scout sono super affollati, in alcuni è arrivata la cucina solidale a chilometro zero, sono il cosiddetto progetto Cambuse Critiche, che è partito un anno fa a Roma e che è stato sperimentato anche in altre regioni come l'Emilia Romagna. Fino al 31 luglio, ancora per qualche giorno, il clan delle Cambuse Critiche cucinerà per 200 capi e volontari al campo regionale del Lazio. Chilometro zero, cucina solidale, ovviamente prodotti del commercio equo. È tutto per questa puntata di Ferribot. Ricordo di iscriverci a ferribot@radio24.it per le vostre informazioni. Grazie alla regia di Fabio Cantadori e in redazione ad Anita Panizza. Alla prossima.